3, 1, fare! Si può fare l'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo 18 e 8 minuti con i vostri interventi tra poco all'800 24 00 24. Se invece volete interagire con noi l'account su Twitter si può fare 24. Allora cominciamo con i titoli di Sky TG24. IMU, è iniziato il Consiglio dei Ministri, Brunetta assicura cancellazione nel 2013, per molti però il governo ha ceduto al PDL. Decadenza, la difesa di Berlusconi chiede una sospensione in attesa della consulta, pronto un ricorso alla Corte di Strasburgo. Siria, si riunisce il Consiglio di Sicurezza, l'ONU chiede tempo per gli ispettori, per Londra bisogna agire anche senza un'intesa. A usare il gas sono stati i ribelli, il regime di Damasco accusa e minaccia, potrebbero attaccare anche l'Occidente. Il Papa celebra messa a Sant'Agostino a Roma, i giovani dice quelli pessimisti li mando dallo psichiatra. Al via stasera la mostra del cinema di Venezia, l'apertura con George Clooney e Sandra Bullock, applausi per i loro Gravity. Monica Bellucci avrebbe un nuovo amore, a rovinare il matrimonio con Cassel sarebbe stata la storia con un imprenditore a zero. Playoff di Champions, il Milan si gioca il futuro con il PSV Eindhoven, diretta stasera su Sky Sport HD. Amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. Ho detto che se ci sono i presupposti potrebbe essere legittimo il ricorso alla Corte Costituzionale o per altre ragioni alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. Appunto, se ci fossero i presupposti. Vuol dire che la Giunta deciderà se ci sono i presupposti. E questa è stata considerata comunque un'apertura nei confronti delle richieste di Berlusconi. Ma questo dipende dal modo di leggere le cose. Lei pensa che non lo sia? Non lo so, io non lo so. Valutate voi. Ci insegna non c'è mai fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Per cui sia il PDL che il PD, se hanno senso di responsabilità, devono trovare una strada per andare avanti. Ecco, per quello che ci riguarda, andare avanti non può consistere nell'abbandonare il soldato Berlusconi. I segnali di fumo, la riconversione dell'energia. Al Partito Democratico noi abbiamo chiesto una cosa molto chiara, abbiamo detto di non pensare al voto sulla decadenza del presidente Berlusconi come alla conclusione della perenne guerra che da 20 anni si svolge contro il nemico Berlusconi. Gli abbiamo chiesto di entrare nel merito, gli abbiamo chiesto di vedere le carte e si accorgeranno che la legge Severino non può essere retroattiva, non può essere applicata e quindi voteranno come noi contro la decadenza del presidente Berlusconi. Luciano Violante, il lodo Violante, si fa strada l'ipotesi che ci sia una disponibilità anche da parte del Partito Democratico a votare il ricorso alla Corte Costituzionale per valutare l'applicazione della legge Severino, la costituzionalità stessa della legge Severino sulla decadenza di Berlusconi da senatore. Dice Violante alla domanda, questa è un'apertura al PDL? Lui dice, ma non lo so, insomma, dipende da come si interpreta. Super, super apertura invece, e la prendono al volo tutti quelli del PDL. Avete sentito le dichiarazioni di Scicchito, ma soprattutto di Lupi, che dice non voterà il PD la decadenza perché sottinteso ci sarà questo ricorso alla Corte Costituzionale. Staremo a vedere. 800 24 00 24, anche questo non può che essere argomento di giornata. Tra l'altro oggi sono state depositate alla Giunta per le immunità i pareri dei costituzionalisti e della difesa di Berlusconi, credo, dove c'è anche questa previsione di ricorso alla Corte Costituzionale, di ricorso alla Corte di Strasburgo. Tra poco sentiremo anche un europarlamentare, Sonia Alfano, su altre cose, ma anche su questo sentiremo che cosa ne pensa. C'è tra le voci da sentire, Gabardini, non so sì, se ieri sera hai visto in onda, c'era Di Pietro che è un po' sì, che non si sente. Allora lui è un po' senza voce, tra l'altro, un po' rauco, ma quindi a noi ci piace un sacco, l'abbiamo preso apposta perché è rauco, senza voce, certo. No, perché sembrava un po' affaticato. Se no ci porta via il lavoro in radio, giustamente. Ma non credo, anche se lui è un personaggio. Di Pietro che interviene in maniera netta sul caso dell'estate, cioè le aziende che hanno delocalizzato, che si sono trasferite nei giorni d'agosto approfittando delle vacanze dei dipendenti. Sentiamo. Se questo accadrà, ma è possibile, si può fare una norma di legge, una legge di esproprio. Abbi pazienza, sai, quelli che hanno espropriato il lavoro, la vita, il futuro, la famiglia, quella gente, quella che cos'è? Non è un omicidio politico, non è un omicidio imprenditoriale, quello è un giochino criminale, perché quella gente non se n'è andata via, non ha chiuso la fabbrica perché è disperata e non ha più soldi per pagare né gli operai né per mangiare se stessa. Quella è gente spregiudicata che in nome del Dio utile, oggi vado qua, domani vado là, dove non si rispettano i diritti umani, dove si sottopagano, dove si fa il lavoro in nero, dove si pensa soltanto alla borsa. Di fosse, la NATO, la e poi se qualcuno mai pensasse ad un possibile ricongiungimento futuro tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, la perenne lite, il perenne corteggiamento mai andato a buon fine, sentite qua come duettano Alessandra Moretti e l'onorevole Ruocco del 5 Stelle, sentiamole. Qui bisogna capire se vogliamo iniziare a crescere e diventare adulti oppure continuare a rimanere, diciamo, bambini e privi di un'iniziativa politica che dia il segnale con gli 8 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle e l'hanno votato per un cambiamento vero. Questo dipende da loro, è una Ruocco, scelta che devono fare. Ruocco, la ricchezza misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda. Le ipotesi fantastiche in studio possono fare qualunque fantasticheria, però di fatto ad oggi noi non abbiamo nessuna intenzione di appoggiare Letta bis e tris, quindi poi dopo si può ragionare come si vuole su basi infondate. Nel frattempo è iniziato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, all'ordine del giorno l'IMU, ma anche la cassa integrazione, rifinanziamento della cassa integrazione, un piano per l'abitazione, un Consiglio dei Ministri che era stato previsto, poi a un certo punto sembrava mancasse un accordo sull'IMU, sembrava che dovesse esitare. Un accordo sull'IMU che manca, ma è più o meno da 4 mesi, diciamo, sì, il problema. Sì, sì, sì, e invece poi è slittato, perché era prevista la 17, è slittata la 18, vedremo se anche in corso di programma avremo delle notizie. Tra le notizie di oggi, le dichiarazioni della figlia di Totò Riina alla TV svizzera, che hanno fatto infuriare i parenti delle vittime della mafia, perché lei dice sostanzialmente: io rispetto l'onore di mio padre, condannato non so più per quante stragi. Il momento triste è stato quando l'hanno portato in carcere, il resto è stato condannato per diverse stragi, per essere il mandante, forse anche l'esecutore di diversi omicidi. Dove doveva andare se non in carcere? Sentiamo la figlia di Riina alla TV francese, per cui sentiamo l'inizio. Io sono onorata di chiamarmi così, felice, perché de porter ce nom. J'en suis heureuse. C'est le nom de famille de mon père. Et j'imagine que n'importe quel enfant qui aime ses parents ne va pas changer de nom de famille. La NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite. Dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale. E questa è la dichiarazione, ce ne sono delle altre, della figlia di Riina. Vogliamo commentarle con l'onorevole europarlamentare Sonia Alfano. Buonasera. Buonasera. Che tra l'altro è anche presidente di una commissione antimafia a livello dell'Europarlamento? Esatto. Ecco, sì. Che impressione le hanno fatto queste dichiarazioni, onorevole Alfano? Ma guardi, sicuramente sdegno, anche se non è la prima volta che la signora Riina si lascia andare a questo tipo di affermazioni. Io vorrei usare un termine molto più terra-terra, vomitevoli, perché qualche mese fa addirittura aveva cercato di far passare come quasi un atto di beneficenza il fatto che lei sia dedita al disegno e quindi aveva messo in vendita alcuni suoi quadri e aveva addirittura detto che il provento della vendita andava in beneficenza. E invece? Invece i destinatari della beneficenza per fortuna hanno preso le distanze, ma la cosa più aberrante è che anche in quella circostanza la signora Lucia Rina aveva detto che lei purtroppo la sua adolescenza l'aveva trascorsa scappando da una parte all'altra, che aveva questo ricordo splendido del padre che gli comprava i colori perché lei amava colorare. Ecco, è una persona che non conosce la dignità. Ma può essere, scusi, che Rina sia stato un buon padre? Perché questo, non lo so, uno se la può fare la domanda. Lei, d'altra parte, probabilmente ha perso il padre di vista quando era piccolina. Ma guardi, io credo che più che chiederci se Rina è stato un buon padre, ce lo dovremmo chiedere se tutte le persone che Rina e gli altri criminali come lui hanno fatto uccidere se erano dei buoni padri, dei buoni padri. Non credo ci si debba concentrare sull'aspetto sociologico della figura di Totò Rina, perché ci sono decine, lo diceva lei poco fa, ci sono decine di sentenze definitive. Per quanti omicidi dicono, è stato condannato? Ma guardi, non si tiene più il conto. And now, the good news! A Napoli, la città italiana con più bambini, lo zoo e il parco giochi Edenlandia sono rimasti chiusi un bel po' di tempo dopo il fallimento della gestione pubblica. Grazie all'associazione La Napoli è stato trovato un investitore privato ed ora il parco e lo zoo potranno riaprire. Bambini di tutta Napoli, preparatevi! +800 24 00 24, più tardi cominciamo a sentire anche gli interventi degli ascoltatori. Adesso insieme a Sonia Alfano per chiederle appunto che cosa ne pensa, ma ce l'ha già detto, delle dichiarazioni della figlia di Totò Rina. Io credo che se uno è figlio di un boss della mafia o di una persona che è stata condannata per delle stragi, comunque esposta anche dal punto di vista mediatico in quel modo, ha probabilmente due possibilità: o cerca di allontanarsi per non evocare il fantasma del padre tutte le volte e avere diritto comunque a una vita, questo sì, la figlia, oppure magari sfrutta anche questo cognome per avere un po' di pubblicità. Mi sembra di capire che secondo lei è la seconda cosa che sta facendo. Non entro nel merito dei sentimenti della signora Rina, ci mancherebbe. Lei dice di essere onorata del cognome perché comunque suo padre vuole bene, per carità, lei può fare quello che ritiene più opportuno, ma abbia il buon senso di non andare a deridere in televisione i familiari, il dolore dei familiari delle vittime di mafia, perché questo non significa che le colpe dei padri devono ricadere sui figli. Però la signora Rina non mi pare abbia mai preso le distanze dalle gesta del padre, che sono tutt'altro che eroiche. Non mi pare che la signora Rina abbia rinunciato al patrimonio del padre, peraltro è un patrimonio che goccia dopo goccia di sangue innocente. Quindi la signora, a mio parere, dovrebbe stare zitta, visto che ha deciso di amare il padre, e posso anche capirlo, dovrebbe semplicemente tacere, avere buon senso, un po' di buon gusto, chiedere al padre di pentirsi, chiedere al padre di raccontare la verità su tutti i suoi delitti e dopodiché chiedere al padre di espiare le sue colpe in carcere al 41 bis, senza cercare ogni volta che è possibile, se gli presenta la possibilità, escamotage vari per poter scontare la pena in situazioni alternative. Quindi la signora dovrebbe semplicemente tacere. Ma avendo visto il video, guardi, io ne ho visto soltanto una parte perché è stomachevole, avendo visto il video mi sembra che la signora vada in cerca di luci della ribalta, ma questo denota che evidentemente la dignità non alberga in quella testa, e mi arrabbio, quello sicuramente, con chi fa da cassa di risonanza a questo tipo di situazioni, perché capisco che può fare audience sentire parlare questa signora. Però inviterei tutte le TV che vogliono fare audience a fare un audience pulito. Possono intervistare i figli dei tanti carabinieri e poliziotti che hanno lasciato la loro vita tra le mani di questi criminali. Possono, per esempio, intervistare i tanti ufficiali, i tanti uomini della polizia, dei carabinieri, per esempio della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia, che passano la loro vita al servizio dello Stato, al servizio della collettività, proprio per assicurare i criminali come il papà della signora Rina. Ecco, questo sarebbe un buon servizio alla collettività, far capire in giro per il mondo che in Italia ci sono i mafiosi, ma ci sono soprattutto tanti uomini e tante donne che mettono la loro vita a disposizione della lotta alla mafia. Senta, qualche giorno fa c'è stata un'altra intervista, questa volta però di un boss della Camorra, Schiavone, che insomma ha detto, certo noi abbiamo sbagliato, lui si è pentito, poi ha detto di essersi pentito del pentimento, ma a parte questo, chiamava in causa quanti fanno parte dello Stato, magistrati, politici, carabinieri corrotti che hanno vissuto alle spalle del sistema che lui reggeva e che secondo lui c'è ancora, tutti interessi economici che girano intorno alla criminalità, quasi facendo e descrivendosi come una vittima, Schiavone. È possibile che questa posizione faccia presa anche nell'opinione pubblica, secondo lei? Ma guardi, purtroppo il continuare a reiterare questo tipo di messaggi alla fine rischia prima o poi di scalfire quelle che potrebbero essere per noi delle certezze, ma di lanciare comunque un messaggio sbagliato. Quello che ha detto Schiavone è esattamente quello che io mi sono sentita dire da Bidognetti, che è detenuto al 41 bis, esattamente un anno fa, quando mi ha descritto la storia della evoluzione, tra virgolette, della Camorra, del sistema, prima ancora dell'NCO, dicendo che l'attività fondamentale, il loro di Napoli, l'oro della Camorra è l'immondizia, e lui spiegava che tutto quello è stato possibile solo ed esclusivamente grazie al ruolo di appartenenti alle istituzioni deviate, di appartenenti comunque alla politica, politica anche quella deviata. Quindi non è un quadro nuovo quello che ci ha descritto Schiavone. Io me lo sono sentito dire da Bidognetti, mi ha lasciato atterrita, devo dirle, durante un colloquio che si è tenuto esattamente il 3 luglio dell'anno scorso. Quindi, purtroppo, quindi non è possibile, secondo lei, definire neanche dal punto di vista sociologico delle vittime gente come Schiavone, Bidognetti o... Non posso assolutamente ritenere vittime queste persone che hanno ucciso e fatto uccidere centinaia di gente, di persone, sono quelle che sappiamo, chissà quante altre persone che hanno fatto uccidere, delle quali noi non siamo assolutamente a conoscenza. C'è un concorso di colpa perché ovviamente ogni qualvolta la politica o le istituzioni si prestano a questo tipo di messaggio, allora là è la cosa è ancora più grave, perché noi sappiamo perfettamente che il criminale fa il criminale e che il suo obiettivo è quello di continuare a delinquere e di arricchirsi. È gravissimo quando il criminale si appoggia alle istituzioni, si appoggia alle forze dell'ordine, si appoggia alla politica e trova delle porte aperte. Senta, onorevole Alfano, così giusto anche un po' per alleggerire, si è fatta tanta polemica sulle vacanze dei parlamentari italiani. L'Europarlamento adesso è aperto? State lavorando o siete in ferie? No, è aperto, anche perché noi abbiamo ritmi completamente diversi. Sì. E già il 3 e il 4 abbiamo gruppo, il 9 siamo a Strasburgo in plenaria. A proposito di Strasburgo, cosa ne pensa del possibile ricorso? È stata depositata oggi un parere alla Giunta per le immunità del Senato, a proposito del caso Berlusconi, un ricorso alla Corte di Strasburgo da parte dei legali di Berlusconi. Credo che i suoi legali, ma anche lo stesso Berlusconi, sarebbe meglio dormire la notte piuttosto che argicolare determinate situazioni, perché l'Europa è una cosa seria, la Corte dei diritti dell'uomo. Cioè, secondo lei la Corte europea dei diritti dell'uomo non prenderà sul serio questo ricorso? Continueranno a riderci dietro, come fanno purtroppo tante volte, come fanno spesso. Anche perché, vede, quando c'è stata quella sentenza definitiva, il resto del mondo ha preso atto di quello che stava accadendo nel nostro paese. Sembra che gli unici a non aver ancora capito siamo proprio noi italiani e soprattutto buona parte della politica italiana. Buonsenso vorrebbe, visto che il reato di frode fiscale è uno dei reati più gravi, buonsenso vorrebbe archiviare e definire conclusa la carriera politica istituzionale di un personaggio, di un criminale, perché è un delinquente, lo sancisce la Corte della Cassazione, di un pregiudicato come Silvio Berlusconi. Io non credo che però la Corte Europea dei diritti del popolo italiano abbia bisogno di un personaggio del genere. No, ma al di là di questo, la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo non è lì anche per concedere un'ultima istanza a chi sente di non aver avuto giustizia nel proprio paese in Europa? Ovviamente sì, ma la situazione è molto più complessa di quella che stiamo descrivendo noi, nel senso che comunque l'iter è molto complesso, ci devono essere delle reali motivazioni il signor Berlusconi ha usufruito di tutta una serie di escamotage e quando non ha più potuto farne a meno ed è stata sancita la condanna definitiva, ha studiato questo escamotage, ma ribadisco, è un buco nell'acqua. Quindi la Corte, secondo lei, insomma, se ne farà un baffo di questa... Forse anche due. Vabbè, questo lo vedremo. Un'altra cosa gliela voglio chiedere, visto che il Parlamento europeo è attivo. Di fronte a questa emergenza della Siria, c'è un'Europa ancora una volta divisa, con la Gran Bretagna, la Francia, anche la Danimarca interventiste. L'Italia ha detto chiaramente che invece non interverrebbe forse neanche sotto l'ombrello dell'ONU, ma sicuramente non senza questo. Non esiste quindi una posizione dell'Europa ancora una volta, allora, su un tema così importante? Noi dobbiamo fare differenza, ci può essere l'opinione del Consiglio europeo, quindi dei 26, dei 28 ormai, oppure l'opinione del Parlamento europeo. L'opinione del Parlamento europeo la conosceremo quando ci riuniremo appunto in plenaria a Strasburgo. Le posso assicurare però che in tutti questi anni... Nel frattempo però potrebbe essere scoppiata la guerra. Questo sicuramente, però le posso assicurare che in Parlamento europeo questa situazione è già stata attenzionata più volte e chi avrebbe dovuto ascoltare ha fatto orecchio da mercante, perché più volte sono state fatte delle raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione proprio da parte del Parlamento europeo rispetto alla situazione in Siria. La situazione in Siria non è esplosa questa settimana, la situazione in Siria purtroppo è tragica già da tantissimi mesi e ribadisco i tanti... Quindi un intervento militare, secondo lei, mi sembra di capire che... esatto, che l'Europa dovrebbe... Una presa di posizione adesso è tardi rispetto a quello che ci troviamo di fronte, però la posizione del Parlamento europeo rispetto alla questione siriana è già stata espressa nei mesi precedenti, rispetto alla... non mi piace il termine entrata in guerra, ma però di questo probabilmente si tratta. Lo capisco. Rispetto all'intervento dell'ONU, io credo che il Parlamento si esprimerà appunto dal 9 settembre in poi. Comunque questa accelerazione che c'è stata in queste ore, secondo lei, è un po' sospetta, perché della Siria si parla in effetti da mesi, da anni. E quindi si doveva intervenire prima per evitare che si arrivasse a questo? Assolutamente sì, anche perché bisognerebbe... Cioè c'è dell'ipocrisia anche da parte dell'America e della Gran Bretagna. Guardi, gli spettatori sono sempre gli stessi, manca la Francia, perché l'ultima volta che ci siamo trovati davanti a una situazione di questo tipo è stata la Francia a prendere immediatamente l'iniziativa. Io glielo dicevo poco fa, ci sono una serie di interessi economici e commerciali stratosferici. Quando l'Europa, e mi riferisco al Consiglio, non al Parlamento europeo, quando il Consiglio europeo porta avanti dei negoziati, degli accordi formali e accordi informali con dei paesi nei quali comunque non vige sicurezza, non c'è democrazia e se ne frega di tutto questo, il Parlamento è vigile, perché comunque fa sempre una serie di richiami, una serie di raccomandazioni, però siamo su due binari diversi, come dicevo poco fa. Il Consiglio europeo sono i 28. Il Parlamento europeo sono i deputati, è una stratosferica differenza. Cioè non avete, vabbè, il Parlamento europeo non è che abbia reali poteri da questo punto di vista, questo è evidente. Dopo l'entrata di Lisbona, prese di posizione, decisione, però aspetti, perché questa è la stessa identica situazione che abbiamo vissuto con la Libia. Io personalmente, insieme a tanti altri colleghi stranieri ma anche italiani, sa per quanto tempo abbiamo richiamato il Consiglio che continuava a fare accordi e anche la Commissione che siglava accordi con la Libia proprio in vista di un accordo UE-Libia? Non glielo posso dire le volte, perché non si... Va bene, dobbiamo fermarci qua. Grazie onorevole Alfano, purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Buona serata, grazie. And now, the good news! Nei bar del circuito Work Coffee a Bergamo, Tolmezzo e presto Piacenza e Milano, si può fare il colloquio di lavoro davanti ad un aperitivo o aggiornare il curriculum con gli amici tra un salatino e uno spritz. Basta uffici grigi e tristi, d'ora in avanti anche la ricerca del lavoro potrà essere più allegra e informale. Eravamo quattro amici al bar che cercavano lavoro. Le 18:38, cari ascoltatori, eccoci qua. In studio c'è anche Carlo Gabardini, il nostro stagista opinionista, che fin qua ti avevo un po' trascurato. Giusto. Com'ero dalla vicenda delle dichiarazioni della figlia di Rina, dell'intervista a Sonia Alfano. Pazzesco, direi almeno la frase che mi ha colpito di più dell'intervista di Rina è quando lei dice: e non bisogna restare nel passato, ma guardare avanti per noi, per le generazioni future. Che è molto, è difficile è da dire. È una frase ambigua, perché è chiaro che bisognerebbe guardare avanti. C'è qualcuno che non può guardare avanti, diciamo. Però chi ha perso i familiari ammazzati dalla mafia, come fa a guardare avanti senza ricordarsi quello che è successo? No, sì, può guardare. E ha ragione, soprattutto chi è morto dice... non può guardare avanti. Soprattutto chi, diciamo, quello è più difficile. Ridiamo anche se non ci sarebbe molto da ridere, no, però no, vabbè, ti è venuta così. Non è che rido, commento. E ha ragione Sonia Alfano, dicevo, quando dice che la figlia di Rina dovrebbe prima prendere le distanze di più da quello che ha fatto il padre. Cioè che non ha mai preso le distanze. A quel che sappiamo. Ha preso il patrimonio, dice, pare. Ha preso il patrimonio anziché le distanze. Dice: mi dispiace per le vittime, però è un po' buttata lì. 800 24 00 24. Se invece volete interagire in diretta con noi su Twitter, il mio account è @ Ale Maurizi. E il mio è @ Carlo Gabardini. Giuseppe dalla provincia di Chieti. Buonasera. Buonasera, dottora Maurizi. Eccoci qua. Le faccio un applauso. Anche due, va. Per come perché? Anche stasera ha buttato un po' di fango, sì, su Berlusca. Come? Non abbiamo neanche parlato di Berlusconi. Sì, la Sonia, come si chiama quella? Alfano, sì. Cioè quello là. Sì. Quella lì... Ha detto che la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo si farà due baffi anziché uno del, sì, l'ho del ricorso. Sì. No, lo ricordo per gli ascoltatori. Ma quella lì, con che titolo parla male di Berlusconi? Cioè, cosa gli ha fatto Berlusconi a lui? Berlusconi è una persona che ha fatto molto bene all'Italia. Adesso io parla a titolo personale. Era un suo commento, non è che bisogna aver subito per forza un torto per non essere d'accordo. Da Bruxelles un europarlamentare è interessante, anzi da Strasburgo, sapere così un punto di vista. Sa quanto vale il giudizio, l'opinione di quella lì? Vale quello che vale. Tre centesimi. Come vale esattamente come quello di chiunque altro. Vale no, come il suo, Giuseppe. Guardi, io la invito a far sentire la registrazione. Ieri sera c'era quello lui della Frankfurt Allgemeine Zeitung, Tobias Piller. Sì, non qua da noi, a In Onda era forse, vero? Sì, l'ha sentito lei. Sì. Siccome ha messo la registrazione di quel cafone di Pietro, diciamo? Sì. Allora faccia sentire alla domanda che ha fatto Telese, il suo collega, no? Sì. Bolscevico come lei. Sì. Faccia sentire. Ma non è mica un jukebox, faccia sentire. Ma cosa vuole che facciamo sentire? Ci dica cosa ha detto, perché è interessante secondo lei, Giuseppe. No, è interessante, sa perché? Ma cosa ha detto Tobias Piller? Ha detto così che la giustizia in Italia non è credibile. Se lo vado a risentire ieri sera. E il suo collega bolscevico Telese ci è rimasto, no? Faccia sentire quello che ha detto. Ma l'ha detto in tedesco? Grazie, Giuseppe. Noi facciamo sentire un po' quello che ci viene, insomma, un po' quello che ci pare, tra l'altro. Però adesso l'ha detto lei quello che ha detto Tobias Piller, e grazie per questa precisazione. Non ho capito bene. Perché dobbiamo farci dire da un tedesco? Era uno sberleffo da parte di un tedesco su come funziona la giustizia italiana. Cioè, se lo diciamo noi, va bene, se lo dicono gli altri. In effetti, questo ci poteva anche stare. Salvatore da Roma, buonasera. Buonasera, dottor Maurizi. Eccoci. La scaletta forse l'avete messa apposta di queste due telefonate. Perché? Come? Perché io faccio il visto con questo amico ascoltatore della provincia di Chieti, che tra l'altro è un abitué. Sì, io infatti è una voce che ho già sentito. Sì. Senta un po', ma io faccio mesi e mesi, se non anni, che faccio una considerazione. E voglio che la senta bene anche il suo collaboratore lì. Salve, sono qui. Buonasera. Buonasera. Lei mi sembra faccia la parte che faceva con l'amico Giuseppe, l'altro conduttore. No, guardi, non ci sono. No, ma non ci sono, esatto. Siamo un'altra cosa. Salvatore, dica quello che voleva dire, che è più interessante, dai. Sì. Allora, adesso ve lo spiego con un esempio. Berlusconi è stato processato per un capo di imputazione che sarebbe valso per tutti i milioni e milioni di cittadini italiani che in questi 60 anni hanno fatto un rogito, hanno fatto una compravendita, compreso voi, senz'altro. Noi in che senso, noi senz'altro? Voi senz'altro Sì, dica quello che vuole dire. Io sono in affitto. Avere fatto un rocito, no? Dica io quello, no. Salvatore, dica quello che vuole dire, però, perché sennò ci perdiamo. Sì. Io lo dico subito. Sì. Berlusconi è stato processato per non aver dichiarato il valore reale di una compravendita, ma la rendita catastale. Per questa imputazione avremmo dovuto essere processati tutti noi italiani che hanno fatto un rogito. Ah bene, ha chiamato per dire questo Salvatore? Ha chiamato per dire questo? Voleva aggiungere altro? Vale fare poco? No, mi pare quello che ha detto. Vuole dire qualcos'altro o è qui tutto qua? Vabbè, un'altra cosa la vorrei dire. La dica. Cioè, il PDL sta sbagliando, Berlusconi sta sbagliando. Nel mio piccolo vado facendo una considerazione. Beh, mettiamo caso Berlusconi accettasse la pena. Mettiamo caso che Berlusconi per un anno si stesse zitto e accettasse appunto la sentenza e mandasse avanti il governo, però facendo opera nel governo dei punti programmatici. Sì, però Salvatore, ritmo, mi raccomando, concludiamo in 30 secondi? No, ma in 30 secondi, datemi la risposta. Ma qual è la domanda? Scusi. Va bene, grazie Salvatore, non ce l'ha fatta a fare la domanda, pazienza. Ha usato il tempo che aveva a disposizione. Ah, grazie. No, la risposta è no. Buona serata, grazie. Armando da Messina, buonasera. Sì, buonasera. Io sto intervenendo neanche a farla apposta sempre sul caso di Berlusconi, però lo vorrei vedere dal punto di vista di chi la sta gestendo politicamente. Sì. Mi spiego, cioè un partito democratico, io ho sentito l'incipit di Violante che avete mandato all'inizio della trasmissione e questo mi ha spronato anche a chiamarvi, sì, che è pregno di tipica ipocrisia politica italiana, non l'ho detto io se è un'apertura, ditelo voi, non lo dite voi. Sì, quella lì di lui Violante è stata, ridacchiava anche. Ma ridacchiama sulle spalle di tanta gente, cioè sì. Io non vorrei che adesso si passasse magari dalla vera base del PD, da occupare PD a bruciare PD, perché discussioni di questo tipo fanno ribollire il sangue, e lo dice una persona che col PD ha avuto sempre grandi distanze. Ora, dico, magari potesse esistere all'interno del PD realmente un Masaniello o un vero leader popolare che si alzi in piedi e gli dica a tutti questi antichi gerarchi, chiamiamoli così, di farsi da parte, che non si può porgere il fianco a questa indecenza. La mia domanda è questa. Seconda domanda magari su cui potreste andare più a fondo, soprattutto sì, dal punto di vista della destra italiana. Se ci fosse qualcuno che potesse cominciare a parlare del dopo Berlusconi, approfittandone ora, sfruttando questa specie di exit strategy, non si potrebbe cominciare a pensare anche a persone di aria, chiamiamola di centrodestra, benché il centrodestra sia stato un copyright preso da Berlusconi negli ultimi anni e basta. Non mi sembra però che si stiano far dopo. Mi scusi, non mi sembra però che si stiano molto occupando di questa exit strategy, nel senso che mi sembra che venga ribadito che il leader è Berlusconi, giusto? Ma infatti, dal punto di vista del centrodestra, del cittadino di centrodestra, secondo me questa è una follia. Perché, ma lei chi propone come leader? Marina Berlusconi? No, assolutamente. No. Allora ci ripigliamo Vittorio Emanuele se dobbiamo fare la monarchia, che magari avrebbero tenuto lontano tante persone. Comunque, volevo puntualizzare soprattutto sul discorso del PD. Magari va bene, grazie Armando. Il concetto che lei ha espresso è che se passa il lodo Violante e se il PD si comporta come dice Violante, il PD muore. È quello che ha detto Sposetti a inizio estate. Questa sentenza, questo caso qua farà implodere il Partito Democratico ed è una previsione possibile, perché è chiaro che dopo aver combattuto politicamente tutto quello che volete Berlusconi per tanti anni, essere proprio loro che gli danno una mano in questo momento di difficoltà, la base degli elettori del PD che se ne fregano di ragionamenti di politicamente corretti sicuramente se la legherebbe al dito, e Grillo prenderà più voti probabilmente alle prossime elezioni. And now the good news. Da 3 anni Guido Ponzini, 28 anni, Viola da Gamba e Miriam Farina, 21 anni, arpa, suonano in un duo acclamato nel mondo. Guido e Miriam hanno un sogno. Per testimoniare quanto sia difficile farsi strada nel mondo della musica classica, vogliono costruire la MG Inc. Orchestra, con musicisti precari. E allora, in bocca al duo! Andiamo con Giovanna che ci chiama dalla provincia di Terni. Buonasera. No, Giovanna forse è impegnata in qualche in un'altra trasmissione. Faccendata. Allora sentiamo Bruno da Foggia. Buonasera. Buonasera. Sto chiamando a proposito della vicenda Berlusconi per rispondere al signore che diceva perché la signora che ha parlato prima ce l'ha con Berlusconi, cosa le ha fatto. Beh, io credo che Berlusconi abbia fatto del male un po' a tutti i cittadini, perché essendo stato condannato con sentenza definitiva per frode fiscale vuol dire che ha tolto dei soldi alla collettività, e quindi credo che sia giustificato che tutti ce l'abbiano con lui. Con lui come con qualunque evasore fiscale. Sì, sarebbe bello avercela con tutti gli evasori fiscali, nel senso che ne abbiamo tutti anche sotto casa con che non fanno lo scontrino. Con tutti, e infatti io pretendo sempre lo scontrino dai commercianti, dagli artigiani e da tutti. Ottimo. Quanto al signore che è intervenuto dopo per dire che tutti quanti quelli che hanno fatto un rogito hanno frodato il fisco perché hanno dichiarato di meno, vorrei ricordare che la legge prevede di dichiarare il valore catastale e non il valore reale della transazione, per cui chi dichiara il valore catastale rispetta esattamente la legge e non froda assolutamente nessuno. Questo sì, ma comunque non abbiamo risposto perché era un po' una semplificazione, nel senso che lui faceva un esempio che era da piccolissima evasione fiscale, quando invece quella imputata a Berlusconi trattasi di frode fiscale. Che dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo pagare le tasse fino all'ultimo. Va bene, grazie Bruno, grazie mille, buona serata, grazie. Adesso c'è un'intervista che può partecipare anche Gabardini, perché non è un politico, non è un'intervista politica. Detto così non vorrei che si offendesse il nostro ospite, glielo spieghiamo. È un politico, ma di piccolo. E poi lo chiamiamo per un'altra vicenda, il sindaco di Capri, Ciro Lembo, buonasera. Buonasera a voi, ai nostri ascoltatori. Mi scusi se ho detto che non è un politico, ma non volevo sminuirla in quanto... Avete ragione, perché la politica, teoria e amministrare... È un'altra cosa, vedi, bravo, è arrivato subito perfetto, così, bello perfetto. Concreto. Io sono felice di essere ammesso a questa intervista, ma stavo zitto. L'avete ricevuta o no questa citazione dal presidente del Napoli, De Laurentiis, per questa storia di Guarini? Non abbiamo ricevuto niente, anche perché lui non è titolato, eventualmente la deve fare il calciatore. E poi invece l'abbiamo fatto noi, abbiamo dato già in carico ai legali sia la città di Capri che l'ASL Napoli 1 per conto anche della regione Campania, quindi chiederemo noi un risarcimento. I danni di immagine per l'immagine, sì, perché lui dicendo che non siete un presidio sanitario adeguato per via di questa sutura. E anche per offese insomma ai medici, ai professionisti insomma, che hanno fatto un lavoro ottimo, eccellente e immediato. E quanti soldi chiedete voi? Noi solo 50. Solo 50. Lì volano milioni 50 proprio milioni. In simpatia. Sì, perché cioè, la faccia, scusi, no, però un attimo, questo è interessante. La faccia di Higuaín vale il doppio dell'isola di Capri. Beh, siamo un'ottima sintesi. No. Tenga presente che l'immagine di Capri invece non ha prezzo. Appunto, siamo noi che dovevate chiedere prezzo, molto di più, un miliardo. Certamente. Scusi, ma secondo me dovevate chiedere di più, un miliardo, perché se De Laurentiis chiede 100 milioni per la faccia di Higuaín, che onestamente sì, è un campione, però non è che sia la faccia pubblica di Capri. Ma il problema, purtroppo il problema non è questo, è un altro, perché lui oggi, ieri doveva, diciamo, girare uno spot per questo film che sta facendo. Sì. Che è il colpo di fortuna, che praticamente deve partecipare sicuramente, forse anche il calciatore. Però purtroppo, cioè, Higuaín deve partecipare a un film che si chiama Il colpo di fortuna. Sì, sì, perché veramente sta girando il cinepanettone. Lui ha indovinato a fare questo scoop, però poteva usare Capri come ha sempre fatto, ma senza danneggiare l'immagine di Capri. Poteva anche concedere. Dopo che uno si spacca la faccia su uno scoglio, titolo colpo di fortuna, non è che non è sullo scoglio, comunque è una serie di... Sì. Perché sulla dinamica anche questo riesci a volare sulla scaletta. Però senta, sindaco, lei mi sembra abbastanza tranquillo, mi sembra di capire che non arriverà questa richiesta danni da parte, cioè dal suo punto di vista. Sì. De Laurentiis ci ripenserà. No, noi lo facciamo sicuramente, io me ne dico. Non voi la richiesta danni per l'immagine di Capri, ma il contrario, questi 100 milioni che De Laurentiis ha detto che vi chiederà. Lei pensa, è tranquillo, che non arriverà questa richiesta, perché... Pure io sono convinto di no, altrimenti De Laurentiis le spara grosse. Ci difenderemo anche questi, certo, ma lui è il suo mestiere, però noi non consentiamo a nessuno di offuscare, di danneggiare l'immagine di Carlo, perché non apprezzo l'immagine di Carlo. Ma quindi voi veramente adesso chiederete questi 50 milioni? Sì, cioè, la notizia di domani sui giornali sarà questa, che voi li chiedete al di là che lui li chieda o meno a voi. Ma io l'ho già annunciato ieri, oggi l'ho confermato perché anche l'ASL si è deciso su un mandato anche della regione, ho parlato col direttore generale dell'ASL, Napoli 1, il dottor Esposito, e quindi sì, abbiamo deciso. Però, che scusi, per la sua parte nominerà il suo avvocato. Sindaco, io oggi, andando a fare un po' di rassegna stampa su questa vicenda, ho trovato un articolo sul sito Affari Italiani di Sergio Luciano che raccontava, credo, di una sua inchiesta, la prima inchiesta che ha fatto un giornalista nel 79, ed era sul vostro ospedale, Capilupi, un ospedale malato nel 1979, cioè è da anni che va avanti questa storia. Guarda, che... il problema del nostro ospedale è più per un fatto, diciamo, strutturale, insomma, che si devono sempre completare questi lavori, è stato fatto già un ampliamento, eccetera, però noi abbiamo un progetto già approvato, piuttosto noi abbiamo avuto una donazione di 2 milioni di euro e questo sì è stato, diciamo, una colpa della regione, dell'ASL, che in effetti questa donatrice, siccome c'erano delle possibilità nel contratto, è passato il termine, non hanno completato i lavori che lei prevedeva e abbiamo perso, insomma, questa donazione. Però, di 2 milioni di euro. Quindi siete, cioè, voglio dire, l'isola di Capri, che è bellissima, tutti la vengono a visitare, però se con questi colpi qua di immagine negativa, al di là poi di come vada a finire la vostra contenzioso con De Laurentiis, è una volta buona che con questi soldi completiamo i lavori. Sì, se li prendete, però bisogna vedere se il giudice vi dà ragione, perché se l'immagine invece corrisponde a una sostanza, cioè voi credete di essere all'altezza della Croazia, di Malta, cioè di posti dove il turismo internazionale va e trova servizi anche ad un certo livello? Il problema, sindaco, dell'ospedale è solo un problema strutturale, perché la professionalità dei medici è eccellente, tenga presente che qua non è che un ospedale, diciamo, che come dire, è stato a paese, però voglio dire, insomma, per la portata di Capri siamo, insomma, all'altezza, sono un fatto strutturale completo. Però d'estate voi avete molti, non nomini però, San Raffaele, che in questo momento non è proprio un momentone. A Capri avete, chiaramente non siete in molti, l'ospedale sarà piccolo, però d'estate ricevete un sacco di gente, è ovvio, dovete essere attrezzati. Rifaccio la domanda. Le rifaccio la domanda. Sindaco, ma ascolti un attimo. Le rifaccio la domanda. Lei pensa che Capri è all'altezza di altre località di vacanza d'estate come la Croazia, le isole della Croazia o Malta? Sì, no, guardi, noi praticamente qua c'è anche un servizio di ambulanza con l'elicottero, c'è una idroambulanza, diciamo, della capitaneria, ovviamente per i casi urgenti, ma anche per i caprisi, ovviamente vengono trasferite subito in pochissimi minuti al Cardarelli a Napoli, insomma, su questo siamo organizzati, poi dipende anche dall'entità, diciamo, dell'intervento, insomma, della situazione che si va a creare. Ovviamente noi invece quest'anno, io per la prima volta, quindi per questo noi siamo pure abbastanza dispiaciuti, ho istituito un servizio di pronto intervento giù al porto, sì, con un'ambulanza praticamente e due medici, perché per avere proprio un pronto intervento, che sai che al nostro porto di Capri arrivano 10-12 mila persone al giorno e ripartono, ovviamente che con l'ambulanza dell'ospedale 118 a volte può capitare che è impegnata, magari Higuain... comune da Capri, e noi immediatamente interveniamo. Adesso, ma Higuain, esempio, ha chiesto di essere portato in un altro ospedale a Napoli o no? No, non è stato mai chiesto, assolutamente. Lui è contento di come l'avete richiuso. I medici e cose, e poi il medico si è visto all'ospedale, sì? Si è sentito anche con il medico del calcio del Napoli. Immagino. Tra l'altro, quindi, De Laurentiis non l'aveva neanche visto in faccia, visto la foto, visto. E quindi anche questo è un aspetto medico, curioso. Sicuramente dopo 24 ore non si può giudicare se i punti di sicuro sono stati, diciamo, applicati bene, eccetera, perché va bene, dobbiamo fermarci qua. Grazie il sindaco di Capri, Ciro Lembo, grazie mille, buona serata. Buona serata. And now the good news. In bicicletta da Torino a Venezia, pedalando a fianco del Po tra agriturismi, città d'arte e paesaggi. Grazie al progetto del Politecnico di Milano, che ne sta studiando il tracciato, una ciclabile così potrebbe presto divenire realtà, come quella del Danubio, che attira ogni anno migliaia di turisti. Così, pedalando sulle rive del fiume, si potrà dire: quanto manca? Ancora un po'. E così dunque, ben ritrovati cari ascoltatori, è finito il Consiglio dei Ministri sulla questione tanto attesa dell'IMU. ci sono un po' di tweet di Alfano che dice la parola IMU scomparirà dal vocabolario degli italiani, probabilmente, aggiungo io, ne comparirà un'altra tipo service tax, staremo a vedere. Esatto. 800 24 00 24. È buono sapere che sono 4 mesi, diciamo, che il governo si occupa di trovare un nuovo nome a questa tassa che si chiama IMU. Intanto però incassiamo acronimo. Il fatto che l'IMU quest'anno non si paga, credo, poi staremo a vedere tutti i dettagli, c'era in ballo la prima rata, la seconda rata, vediamo se escono fuori gli aggiornamenti mano a mano che andiamo. Allora, se volete intervenire in diretta al numero verde l'abbiamo detto, se volete interagire con noi i nostri account su Twitter sono chiocciola si può fare 24, chiocciola Ale Maurizio il mio e poi Carlo chiocciola Gabardini. Carlo Gabardini il mio. Titoli del TG3. IMU raggiunto l'accordo, in corso il Consiglio dei Ministri, cancellazione per tappe, abolita la rata di giugno, rinviata quella di dicembre, service tax dal 2014. Nell'intesa ci sarebbe anche il rifinanziamento della cassa integrazione, 700 milioni per gli esodati, allo studio misure per rilanciare l'edilizia. Presentata la giunta per le autorizzazioni, la memoria difensiva di Berlusconi che punta sul ricorso alla consulta e si appellerà alla Corte di Strasburgo. Conto alla rovescia per l'attacco contro Damasco, il regime di Assad, i terroristi colpiranno l'Europa con il gas, l'ONU chiede più tempo per gli ispettori. Critica l'Italia sull'intervento, la Bonino, l'uso di gas è un crimine, ma senza l'ONU si rischia solo di aggravare la situazione, la Merkel, soluzione politica. Disoccupati, cassa integrati, precari, 9 milioni gli italiani alle prese con il dramma lavoro e a giugno un nuovo crollo dei consumi, meno 3%. Al via la mostra del cinema di Venezia, in programma molti documentari, oltre alle star al Lido anche Bauenza, l'impegno di George Clooney per il Darfur. Amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami. Abbiamo preparato la copertina anche per questa seconda parte di Si può fare con Salvami di Jovanotti, la scelta musicale di questa sera della redazione Riccardo Poli e Laura Marchesi, perché il lodo violante sta prendendo piede ed è il salvataggio forse per Berlusconi, se nel PD prevarrà questa tesi. Ma c'è, credo, Enrico Letta in diretta a Palazzo Chigi. E l'abbiamo ribadito ai nostri alleati al termine del Consiglio dei Ministri, che credo stia parlando però forte, ora di Siria, sentiamo. Condivisione della condanna nei confronti di quanto è avvenuto e nei confronti del regime di Assad. Seguiremo passo passo l'evolversi della situazione. Per adesso appunto il tipo di comunicazione che voglio fare si ferma qui. Avete visto il comunicato che abbiamo dato fuori poco fa e ovviamente però insomma questa cabina di regia del governo su questi temi è convocata permanentemente per seguire passo passo le vicende di questa gravissima crisi internazionale che è nata per l'appunto dalla decisione criminale, per quanto per adesso se ne sa, del regime di Assad e dell'utilizzo delle armi chimiche. Abbiamo chiesto con grande forza alle Nazioni Unite che siano date tutte le risposte e ovviamente che sia chiarito tutto quello che è successo. Vengo al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, un Consiglio dei Ministri molto importante. Ecco, vediamo un po' se Letta ci dà qualche dettaglio sulle decisioni in materia fiscale, vediamo un po'. Tra i capitoli nei quali si compone il decreto legge che abbiamo approvato e che ovviamente, data la complessità del tema, verrà definito nei particolari nelle prossime ore e quindi avrete poi il testo completo. Intanto, mentre Letta si prepara a spiegarci l'IMU, c'è una dichiarazione della Merkel che dice, la cancelliera tedesca, è stato sbagliato far entrare la Grecia nell'euro e anche allentare il patto di stabilità, due cose che sono state fatte in passato ma adesso sono la causa delle nostre difficoltà, pochi giorni dalle elezioni della Germania. Dichiarazione significativa della Merkel, sentiamo ancora Letta. Credo molto importanti per il nostro paese, per dare dei segnali molto, molto forti. La prima, abbiamo deciso di dare una risposta molto significativa sulla urgenza della fine delle risorse che erano state allocate per la cassa integrazione, quindi per il lavoro. Abbiamo rifinanziato la cassa integrazione per 0,5 miliardo di euro. Questo rifinanziamento è un rifinanziamento che renderà possibile nei prossimi mesi dare risposte credo importanti e significative rispetto alle crisi industriali e alla crisi sul lavoro che il nostro Paese sta vivendo. Quindi una prima risposta molto importante che è in linea con le decisioni che abbiamo assunto già nella primavera scorsa, perché appunto in questo momento l'emergenza lavoro ci pare un'emergenza particolarmente significativa. Accanto ai provvedimenti per la crescita abbiamo ritenuto necessario mettere in campo, che sono quelli già presi nei precedenti Consigli dei Ministri e che prenderemo nella legge di stabilità, c'è la necessità oggi di dare risposte ovviamente a coloro che hanno perso il lavoro e che si trovano in una situazione di difficoltà. La cassa integrazione rifinanziata oggi è una prima risposta molto importante. Possiamo dire che se fosse un nostro ascoltatore che ci avesse telefonato, diremmo sì, vabbè, arrivi al punto però. Vediamo se c'è qualcos'altro sull'IMU. Sono letta da Roma. Le categorie oggi più disagiate dal punto di vista sociale del nostro Paese, sempre sul terreno del lavoro. In particolare siamo andati a individuare, dopo discussione di queste settimane, dopo che attorno a questo tema si è discusso a lungo, sulla questione degli esodati, dei cosiddetti esodati, si è andata a individuare la categoria più disagiata dell'intero mondo, purtroppo, degli sfortunati lavoratori che vanno sotto la definizione di esodati, e in particolare la categoria dei licenziati individuali, di coloro cioè licenziati individualmente. Non lo so quanto andrà avanti a questa conferenza stampa, e io volevo sentire i dettagli. Dirà l'IMU per l'evento, per l'edizione delle 20. Sì, quindi per il TG1 abbiamo 40 minuti. Vediamo un po' se ci arriva, Letta. Sentiamo. Che è intervenuto dell'età pensionabile, si sono trovati e si trovano tuttora in una condizione. Intanto possiamo dire che ci sono Del Rio, ministro degli affari regionali, la Di Girolamo, ministro dell'agricoltura, Giovannini, ministro del lavoro, Alfano, vice premier, Letta, e poi c'è un altro che non ho capito chi è, che non ho visto bene. Comunque finora ha detto mezzo miliardo per il rifinanziamento della cassa integrazione e poi gli esodati, dobbiamo capire la cifra, perché poi la vera botta se sarà, ci parliamo sopra, sarà impossibile. Certo. Intervento che appunto viene svolto per cercare di chiudere, di arrivare a chiusura della vicenda complessa degli esodati. Il terzo e il quarto capitolo del provvedimento riguardano la questione della casa. Oh, eccola. In particolare, eccola qua. Il terzo capitolo riguarda il tema del sostegno a favore della casa e a favore in particolare di categorie disagiate di cittadini che hanno a che vedere con il tema della prima casa. Riguarda la prima casa, riguarda il tema degli affitti, è un provvedimento molto complesso, il ministro Lupi appunto è qui per illustrare questo provvedimento, mentre il ministro Giovannini illustrerà i primi due capitoli che ho citato precedentemente. Questo terzo capitolo del provvedimento dà una risposta. Però molto non è questa la questione dell'IMU, è questa una questione sul sarà il punto 4, sostegno, il gran finale della casa, dei mutui per la prima casa, sul tema degli affitti. Si cerca soprattutto di intervenire su quelle categorie di disagio colpite particolarmente dalla crisi. Parliamo della cosiddetta morosità incolpevole, cioè di quelle persone che si sono trovate in difficoltà a pagare le rate dei mutui perché hanno perso il lavoro, per esempio, durante la crisi. Parliamo delle giovani coppie in difficoltà parliamo dei lavoratori con contratti precari. Tutti interventi, li illustrerà poi il ministro Lupi, che aiutano e sostengono in fondo, forse, l'IMU. Disagiate sul tema della mi casa. Sembri ottimista. E ovviamente, ma però, sì, a questo poi c'è tutto un da stagista non posso che tacere ed ascoltare. All'azione della Cassa Depositi e Prestiti per il sostegno all'edilizia sociale, tutto il capitolo del social housing che con un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti Intanto viene fortemente c'è la cifra degli esodati coinvolti da questa misura, 6.500. Degli altre parti del capitolo, che peraltro è già iniziato con l'intervento che facemmo prima dell'estate sulla questione delle ristrutturazioni per l'aiuto dell'edilizia nel nostro paese. Sapete che l'edilizia... No, è talmente, c'è stata talmente tanta attesa su questa cosa dell'IMU che adesso non possiamo, quando sta per dirlo. Certo. Io credevo che cominciasse di lì. Speriamo che lo faccia prima delle 8:30. E quindi in particolare... impegni stasera? No, no, se no faremo un piccolo si può fare in coda, così alle 22. L'edilizia e poi che aiutano categorie particolarmente svantaggiate di italiani sul terreno della, dei mutui e della casa, rappresenta sicuramente un fatto molto importante. Devo molto ringraziare rispetto al lavoro che si è fatto. Qui dentro ci sarà anche... ringraziamento, ci saranno anche no, i però. Capitoli che hanno a che vedere con gli studenti. Racconto i una barzelletta fra il punto 3 e il punto 4. Tutto riguarda l'aiuto di categorie di italiani che oggi in particolare hanno vissuto dal periodo della crisi una situazione... Vabbè, se mai lo leggiamo dalle, no, adesso arriva. Dalle agenzie, lo leggiamo, vediamo. Per quanto riguarda poi il quarto capitolo, il quarto capitolo è quello quarto, che ha a che vedere via. Con... la tassazione sulla prima casa e sui terreni Lola. Agricoli e sui fabbricati rurali. Abbiamo assunto una decisione che è fatta di tre capitoli a sua volta, complessivi, quella che riguarda l'IMU. L'IMU viene cancellata, dal 2014 non ci sarà più appunto l'IMU come l'abbiamo conosciuta fino a oggi, nella linea della... Non avevamo fatto ancora il tempo a fare amicizia, che da lì ci siamo passati all'IMU, adesso la già è sparita. La riforma, il superamento, sì. Porta oggi alla fine dell'IMU. Che diventerà? Dal 1 gennaio 2014 nasce la Service Tax, che unifica e che terzo tocca nome la in tre anni, in anche. Quattro anni. E quindi è un intervento che riguarda... Siamo al gioco delle tre carte, per l'appunto. Esatto, riguarda sostanzialmente gli acronimi, diciamo. Sentiamo poi se ci sono dei dettagli in più. Per l'IMU, quindi questa prima decisione è una decisione che verrà formalizzata nella legge di stabilità, quindi legge di stabilità che presenteremo il 15 di ottobre al Parlamento, e poi il Parlamento discuterà. Vabbè, secondo me non c'è molto di più di questo. Direi che ha detto tutto, anche perché di più del gioco delle tre tasse sulla casa non c'è, perché il gioco delle tre tasse non è male, perché poi sappiamo che quindi quest'anno non si paga la prima rata che era stata sospesa, e credo che sulla seconda ci sarà una decisione che arriverà più avanti. Sì, anche perché la vera cosa che ci interessava era la famosa storia anche della restituzione, perché ieri La Russa a un certo punto, sì, diciamo, per gettare benzina sul fuoco, ha twittato: ma quelli del PDL si accontentano di non avere l'IMU per il futuro, o vogliono anche la restituzione, che è la vera cosa davvero, che noi volevamo ai tempi? Non ci sarà, questa non ci sarà, ci si vogliono troppi soldi. And now, the good news! A Napoli, la città italiana con più bambini, lo zoo e il parco giochi Edenlandia sono rimasti chiusi un bel po' di tempo dopo il fallimento della gestione pubblica. Grazie all'associazione La Napoli è stato trovato un investitore privato ed ora il parco e lo zoo potranno riaprire. Bambini di tutta Napoli, preparatevi! .800240024, eccoci qua, ben ritrovati. Abbiamo sentito le parole di Enrico Letta alla fine dell'atteso Consiglio dei Ministri a proposito delle misure, insomma, del governo, cassa integrazione rifinanziata, misure per gli esodati e poi sostegno alla casa e poi l'IMU. Non ci sarà più l'IMU, sparisce l'IMU, ma arriva la service tax. Quindi esatto. A chi dice che questo Consiglio dei Ministri non ha partorito nuove tasse, in realtà non è vero. Perché va via l'IMU, ma arriva la service tax, che sarà una somma della TARES più un'imposta sul patrimonio, probabilmente delle case di lusso, staremo a vedere. Zanonato infatti ha twittato: eliminata rata IMU, misure per case d'edilizia, rifinanziata cassa integrazione, misure per esodati, nessuna nuova tassa, governo Letta. Ed è bello anche un tweet di Luca Sofri che dice: i tweet di Alfano e Zanonato sull'IMU sono praticamente identici, compreso il sovraccitato uso di punti esclamativi. Vedi un po'. Vabbè, questo cosa vuol dire? Vedi un po'. Niente. Alfano e Zanonato che dicono la stessa cosa. Beh, del resto loro sono al governo e quindi comunque si compiacciono del fatto che intanto non è stata cancellata la prima rata dell'IMU di quest'anno. La seconda, credo che, di aver capito bene, che la decisione è stata rinviata, ma probabilmente verrà cancellata anche quella. O entrerà già sotto area di questa nuova service tax. No, secondo me non si può invece dire che non ci sono nuove tasse, perché l'ha già nominata la service tax, questa è una novità. Allora, con gli ascoltatori riprendiamo a far intervenire Lorenzo, che ci chiama da Brescia. Buonasera. Buonasera. Prego. Volevo intervenire sulla Siria. Sì. Niente, l'America non può essere lo sceriffo di tutto il mondo. Lo è già per l'Europa, primo. Secondariamente, abbiamo sbagliato con l'Iraq, abbiamo sbagliato in Libia, abbiamo sbagliato in Tunisia. Abbiamo sbagliato dopo sempre. Tutti quei massacri, sì. Ma abbiamo, dopo, dice, tutti come massacri che hanno. Beh, no, è vero che in tutti questi interventi all'estero non è che si siano finiti poi. No, volevo in, capire in se era, gli italiani abbiamo. Scusi, in Libia. Sì. In Libia hanno continuato, sono andati giù, non che sia a favore con la Libia, però ognuno di noi abbiamo una cultura. Lorenzo, mi dica una cosa, sulla Siria, l'Italia fa bene a non intervenire? Non deve andare, non dobbiamo incazzarsi. Incavolarci in una cosa che non ci interessa a noi, cioè il fatto noi di questi civili morti nella guerra civile, non ci interessa. La mutua e l'assistente sanitaria presso il popolo che c'è milioni. Va bene, grazie, buonasera. Fabrizio D'Arieti, buonasera, tocca a lei. Abbassi la radio, anzi la spenga, e ci senta per telefono, grazie. Sì, è così. Perfetto. Senti, io volevo prima fare una battuta. Dicevo questo, per la sinistra l'occasione è mondiale, no? Poter togliere con un colpo di spugna il proprio avversario di 20 anni, non riescono a capire come possano perdere questa occasione. Ma detto questo, volevo dire una cosa concreta. Secondo me l'unica cosa da fare in questo momento, ho un ritorno pazzesco che non riesco a parlare. Vada, noi la sentiamo benissimo, Fabrizio, vada. E dicevo questo, che si è dimenticato quello che voleva dire. Sì. No, è che il ritorno è pazzesco. Allora, dicevo che la situazione concreta, credo che sia opportuno fare quello che diceva Violante, cioè rinviare la decisione alla Corte Costituzionale, perché è un organismo comunque alto che può, secondo me, il tempo un pochino rasserenare gli animi, perché io credo che veramente in questo momento arrivare a una crisi di governo sia un dramma. Grazie a lei. Grazie, buona serata. Valerio ci chiama da Perugia, buonasera. Sì, buonasera. Senti, prego. Io volevo intervenire in merito a Berlusconi. Io credo che noi italiani veramente accettiamo di tutto. Questo è sceso in politica per fare gli affari suoi, è stato evidente, lampante, sotto gli occhi di tutti. Uno. Due, era il governo prima di Monti, ci ha portato dove oggi siamo. Come è uscito, che è entrato Monti, ci avevano tutti la soluzione, criticavano il governo perché doveva fare così quella, dimenticando che 4 mesi prima erano al governo. Oggi sono al governo con il PD, sembra che loro praticamente si fanno belli davanti alla gente che vogliono togliere il l'IMU e il PD no, perché chiaramente il PD togliendo l'IMU sulla prima casa, adesso si rischia che le tasse le pagano anche chi non c'ha la casa per niente. Per cui, per tamponare. Cioè lei si riferisce alle tasse sui servizi degli affittuari? Cioè a questa service tax? Certo. Ma non sappiamo ancora niente di questa service tax. No, ma sarà una tassa orientata, sarà una tassa orientata sicuramente in parte sui servizi che, di cui l'abitazione gode, per esempio ricomprendendo anche la tassa sui rifiuti. E quindi devi avere la casa, se non hai la casa. No, ma anche se sei in affitto. Quindi l'ascoltatore diceva finisce che paga anche chi è in affitto e non è proprietario. Però guardi, questo è già così. Questa nuova service tax ricomprenderà tutto e staremo a vedere, insomma, perché finché non sappiamo per i dettagli. Sì. Però sono talmente bravi quelli del PDL o sono proprio sottopiedi quelli del PD, perché al punto in cui siamo, sono al governo insieme, sembra di fronte alla gente sembra che il PDL vuole togliere l'IMU e il PD no. Ma infatti era un po' così, cioè il PD voleva toglierla fino a un certo valore delle immobili o comunque giusto, dei redditi. Secondo me è giustissimo, e questa era la richiesta, togliere l'IMU, sì. La prima casa, però tu una che c'ha una casa che costa 1 milione di euro, che senso ha andare a togliere l'IMU a quello lì, mi perdoni? Guardi, per me non ha molto senso, se lo chiede a me, poi se lo chiede agli ascoltatori sentiamo che cosa ne pensano, però è chiaro che ci sarà a me è stato detto, forse una fascia più grande di abitazioni di lusso che pagheranno comunque una tassa di proprietà, però ripeto, al momento sappiamo che l'IMU non c'è più. C'è stata l'ICI, c'è stata l'IMU, non c'è più. Cancellata la prima rata, la seconda rata sarà cancellata con le coperture ancora da trovare, con un provvedimento che ci sarà, e dall'anno prossimo ci sarà la service tax. Secondo me ad oggi sappiamo abbastanza poco. Dipenderà da come faranno questi calcoli e ci sarà chi pagherà di più di prima, come spesso accade in Italia, chi pagherà meno, questo sì. Dove andiamo? Andiamo a Antonio che ci chiama da Alessandra, buonasera. Alessandria. Sì, buonasera a voi e ai radioascoltatori. Io volevo fare un intervento così un po' provocatorio, ma umoristico. Sono anni che ascolto la vostra radio, è una radio eccezionale, mi fa compagnia in viaggio, io per lavoro. Questa è la parte umoristica? Tantissimo. No, questa è la parte seria. Ah. Volevo fare un appello a tutti i radioascoltatori. Non fatemi cambiare canale, basta parlare di Berlusconi, sempre Berlusconi nel bene o nel male, basta, non parliamo. Va bene, ci parli più. Lei di qualcos'altro, via. Ma io invito i radioascoltatori a proporre ricette, barzellette, telefonare per proporre posti di lavoro. No, ma guardi, si possono anche fare importanti messaggi, Antonio, comunicazioni. Grazie per la sua provocazione. Non so se poi voleva aggiungere un argomento, diciamo, alla discussione più no, sostanziosa. No, questa era una provocazione. Grazie, ovviamente. Perché grazie. Noi lo facciamo già, non so se noi mandiamo in onda le good news al termine di ogni pausa, prima di ogni pausa, per esempio, poi abbiamo la bella storia, facciamo tante cose diverse che non hanno a che fare con la politica e sono comunque notizie. A proposito, abbiamo parlato anche di Higuain, abbiamo parlato i punti, gli scogli, il sindaco di riaprire le case De Laurentiis. No, tra l'altro, tra le buone notizie di questa sera ce n'è una che riguarda Napoli, dove si sta riaprendo lo zoo e soprattutto il parco giochi. Finlandia, Napoli, che è la città con più bambini d'Italia, come età media è quella con l'età più bassa, e dove per un fallimento della gestione pubblica c'era stato tutto un problema. Adesso sta subentrando un imprenditore privato per riaprire questa cosa qua. È una buona notizia, grazie anche al movimento di cittadini, la Napoli che vogliamo. Mi ha fatto sta notizia, qualcuno ha commentato, ma come, una buona notizia la riapertura di uno zoo, le gabbie per gli animali, vabbè. Questa è una questione eterna con gli animalisti, però se lo zoo è fatto bene è una buona notizia. I bambini ci vanno, si divertono e gli animali vengono trattati bene. E quindi questo era per puntualizzare, perché qualcuno ha scritto al 349-238-6666. Dove andiamo? Con qualche ascoltatore? Tanto ti leggo un sms che è arrivato che dice: la tassa più bella, TARAC, tassa radioascoltatori comunisti. Così la butto lì. È un sms che la tassa arrivato. Sui radioascoltatori oppure dei radioascoltatori? Chi lo sa? Questo non è dato saperlo. Francesco da Taranto, buonasera. Buonasera, salve. Non parlo di Berlusconi, così il precedente ascoltatore è contento. È contento, sì. E salto gli inevitabili complimenti che sono stucchevoli. Così siamo contenti anche noi. Che veramente mi ha deluso tantissimo. Perché? Io da Letta e Alfano non mi aspettavo che quello che sta venendo fuori, il continuo rinvio, invece nella Bonino vi ponevo molte speranze, solo che veramente mi ha deluso in maniera incredibile. Quando ero all'opposizione, fuori dal palazzo, si occupava della difesa dei diritti dei popoli più improbabili. Adesso che ha l'occasione di far prendere una posizione chiara all'Italia a sostegno dell'Occidente, quell'Occidente che ancora ha un po' di nervo, diciamo, per difendere i civili siriani, si sta comportando peggio del peggior ministro democristiano, il rinvio, l'ONU, aspettiamo l'ONU, cioè praticamente legale in decreto, aspettiamo, ma se anche l'ONU dicesse non è detto, che tanto valeva tenersi il ministro democristiani di una volta, i Forlani, gli Aldo Moro Buonanime, cioè, così almeno non ci si aspettava niente, dice. Di, sulla questione Abia Zorfo praticamente non pervenuta, sulla questione dei Marò in India lì non, lo stesso non pervenuto, sono veramente deluso, per me sarebbe stata addirittura un'ottima Presidente della Repubblica, però a questo punto viva Napolitano e Va bene, è tutto qui. Grazie. Andiamo a Giovanna che ci chiama dalla provincia di Terni, che l'avevamo chiamata prima credo in ballo ma non ci sentiva, ci sente adesso Giovanna? No, vi sento perfettamente, cioè vi sento lontanissimi, però noi la sentiamo benissimo, siamo lontanissimi, siamo a Milano, siamo a Milano. Cioè è come se mi senti, come se io stessi ascoltando che lei sta parlando con altre persone. Guardi, però l'importante è che noi sentiamo lei e la sentiamo molto bene, quindi parli. Vabbè, pure meno male, mi dispiace soltanto che io, contrariamente a quello che ha detto l'interlocutore una o due volte fa, adesso non mi ricordo, sì, non vorrei parlare di Berlusconi, nel senso, ma dico, siamo impazziti in Italia? No, voglio sapere se esce fuori uno che dice, oh, ho fatto del bene all'Italia, e io dico, ma siamo impazziti? Qui c'è uno condannato in Cassazione dopo tre gradi di giudizio, che ci ha fatto sopportare tutti i rinvii possibili e immaginabili, che quello non ne parla nessuno di quello che è costato alla giustizia italiana. Una volta non poteva, l'altra volta c'era l'UEITA, cose da manicomio, va bene? Addirittura l'UEITA ha ritirato fuori. Adesso, che gli è saltato in testa a come si chiama? Violante. Ma che gli è saltato in testa? Ma io dico, hanno fatto dimettere la Idem per una multa di 3.000 euro. Questo è mentre faceva il Presidente del Consiglio, è stato condannato al terzo grado di giudizio per una truffa ai danni dello Stato mentre era Presidente del Consiglio. A questo punto, una truffa fiscale. Va bene, adesso Giovanna, lei è un'elettrice del PD? Eh? Lei è un'elettrice di centrosinistra? No, io non so per niente, io ero un'elettrice di centrodestra. Vabbè. Mi fa addirittura disgustata da non poterne più. No, ma guardi, grazie Giovanna, ieri sera abbiamo fatto... grazie Giovanna. Questo, ma ha già detto quello che doveva dire, grazie. No, non l'ho detto. Abbiamo fatto niente, risentire a Giovanna, grazie, buona serata. Ieri abbiamo fatto risentire Daniela Santanchè quando nel 2008, candidata della destra, prendeva le distanze da Silvio Berlusconi sulla nota questione delle donne e le vede orizzontali, e questa volta saranno le donne e le elettrici a cucinare Berlusconi. C'è gente, lo ripeto, come forse anche Alessandra, che hanno votato la Santanchè, quella destra, perché era anti-berlusconiana. Oggi certo, se la ritrovano in prima fila, ma questo è un discorso all'interno del centro-destra. Volevo dirti, sì, un altro tweet di 4 minuti fa in risposta a quello che avevi letto prima tu di Angelino Alfano, un tweet di Maurizio Gasparri che dice: confermata l'irrilevanza di Fab Saccomanni, il ministro. Sì, perché no, in effetti non lo so poi se l'irrilevanza delle coperture economiche alla cancellazione dell'IMU le avrà trovate Saccomanni. No, quindi... ma io non volevo fare nessun commento, mi interessava il fatto che Gasparri in un tweet, diciamo, getta benzina sul fuoco dicendo il ministro non conta assolutamente nulla, perché questa roba è pubblica. Non è che Gasparri conti molto di più. Salutiamo Massimo Cacciari, buonasera. Buonasera. Ecco, la domanda è questa. La signora di prima, non so se l'ha sentita Cacciari, era un'elettrice di centrodestra, dicevano, sì, di cosa stiamo parlando? Tre gradi di giudizio, la Cassazione, sì, Berlusconi si deve dimettere, eccetera, eccetera. Adesso sì, viene fuori il lodo Violante. Per il PD, se passa questa idea, è la fine? Sì, ma non credo che passerà. Certamente sarebbe la fine. Qualunque decisione assuma il PD, che sia anche di rimando, di rinvio, qualsiasi mezza misura intenda assumere sulla questione della decadenza di Berlusconi, si suicida. E quindi ciò non avverrà, perché primum vivere, dice il proverbio. Quindi sicuramente sì, il PD voterà per la decadenza di Berlusconi e a quel punto il cerino passerà nelle mani del PDL. E penso che tutto sommato ci saranno delle manifestazioni, sì, di forte protesta, magari si giungerà perfino forse ad una crisi di governo per poi vedersi Napolitano che rimanda Letta un'altra volta alle Camere. per prendere la fiducia, perché quindi, non c'è la possibilità di andare a elezioni anticipate. Cioè, quindi Cacciari, lei crede, scusi, lei, perché questa cosa sì. È abbastanza importante, e lei sì. Insomma, è un osservatore attento e fra l'altro conosce anche personalmente molti dei protagonisti attuali del PD. Lei crede alla linea ufficiale? Perché noi siamo abituati spesso con il Partito Democratico a sentire una linea ufficiale, sì, per perché, un bel po', perché, vede, una litania. Credo. Poi a un certo punto crolla una diga. No, no, ma ci credo semplicemente perché? Ripeto, primum vivere, spiriti animali sufficienti per... Ma per vivere chi? Il partito o il governo? Vivere chi? Il partito o il governo? Perché in questo per momento partito, c'è... Per il partito, no, il governo magari a metà non gliene frega niente, ma è per il partito. È chiaro che il Partito Democratico oggi... Una questione di questo genere, se dimostra incertezze alle elezioni, quando ci si andrà, prende il 10%. Cioè sarebbe proprio un riflesso degli uomini suicidio, di partito un suicidio. Prima di suicidarsi, non per un'altra ragione, ma non potranno tendere la mano a Berlusconi con una cosa no, come l'odio violento. Non possono assolutamente, su una questione di questo genere, dopo la sentenza della Cassazione, non possono in alcun modo, anche perché poi le ragioni sono inesistenti, perché si parla di agibilità politica di sì. Berlusconi, ma chi gliela nega l'agibilità politica? Berlusconi l'unica cosa che non può fare, che non potrà fare, è rifare il senatore, punto. Tra l'altro, può dirigere il partito esattamente come lo dirige Grillo senza essere al Senato. Tra l'altro qualcuno potrà fare sì. Tutte le campagne elettorali che vuole, se non partecipando in comizi con televideo, in teleconferenza, firmare i manifesti del suo partito, può fare tutto quello che vuole perché è senatore. Tra l'altro qualcuno ha calcolato la percentuale di assenteismo del Berlusconi senatore oltre il 90%, per cui ma questo punto di vista fa un po' ridere. Fasullaggini. Il sì. Problema è che il gioco del PDL è del tutto esplicito, è mettere in stato ancora più confusionale il Partito Democratico. È una provocazione continua nei confronti del Partito Democratico e per cercare di vedere di farlo collassare, cosa che il Partito Democratico credo che sia in grado di fare per conto proprio ultimamente. Senza bisogno di suggerimenti. A sì. Proposito di un'altra cosa che poi è sempre a che vedere con l'odio violante, al di là di come andrà a finire politicamente, io mi sono fatto questa domanda qua: se un Parlamento italiano nel 2012 vota una legge, la legge Severino, e dopo nemmeno un anno lo stesso Parlamento rimanda questa legge alla Corte Costituzionale per valutare la Costituzione, non è un cortocircuito, non è una cosa folle? Ma no, ma è una cosa, cioè, è un paese, guardi, ormai io sono anche stanco di ripeterlo, è un paese ormai in drammatica crisi, ormai non solo programmatica, è proprio in uno stato confusionale grave. Perché questa è una cosa strana. Tra l'altro si dice, si sente dire che sono sempre i giudici a avere l'ultima parola in Italia, a bloccare le leggi, a fare delle cose. E una volta che il Parlamento potrebbe decidere in autonomia si rimanda ai giudici. Lei ha perfettamente ragione, ma cosa vuole? La situazione è questa. Assenza di partiti, assenza di leader credibili, eccetera, ormai dopo 25 anni questi sono gli effetti che producono inesorabilmente. È un paese che è sull'orlo del precipizio, ma davvero questa volta, davvero, e secondo me ci cade dentro in pieno se ci fosse una crisi irrimediabile del governo Letta, cioè se si arrivasse, diciamo così, alle dimissioni dello stesso Napolitano. In questa situazione un po' impantanata, sappiamo che tra qualche giorno il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che dovrebbe correre alle prossime primarie del PD, uscirà con credo una presa di posizione, qualche dichiarazione. È il momento secondo lei per Renzi di rompere gli indugi definitivamente? Ma Renzi anche lui è l'incudine del martello, perché non può certamente essere quello che fa cadere il governo Letta, e quindi dovrà correre in questa situazione per la segreteria del Partito Democratico. Cosa difficilissima che possa riuscirgli, perché all'interno del Partito Democratico, a meno che non inventino delle regole per cui, non so, per la segreteria di questo partito, di un partito, può votare chiunque a prescindere, ben difficilmente ce la potrà fare, oppure ce la farà scassando, sconquassando il condominio. Cioè, una cosa per Renzi era essere il candidato premier. Ma la candidatura a premier, se non cade Letta, campa a cavallo. Però giocare per far cadere Letta gli è totalmente precluso, o meno giocare esplicitamente, e perciò anche lui ormai deve giocare d'attesa. Ma è possibile immaginare un PD che va alle elezioni con Letta? Letta secondo lei è in grado di prendere voti? Guardi, io insisto, cioè, l'ho anche scritto sì, questa settimana, cioè, la soluzione ragionevole sarebbe un accordo anche di tipo, come dire, generazionale, transeunte, pro tempore, tra Letta e Renzi, che tranquillizzi Renzi sulle sue prospettive future e nello stesso tempo permetta a Letta di governare con una certa tranquillità. Sono due giovani, ambedue, il salto generazionale avverrebbe, hanno anche una certa complementarietà di immagine, tutto sommato i due. Quindi potrebbe essere un direttorio, potrebbe essere un consolato pro tempo, in attesa di vedere chi fa il Cesare, ma cosa vuole? Qui scatta un meccanismo su cui sarebbe lungo soffermarsi, cioè quello dell'eterno istinto fratricida della politica italiana. E del PD in particolare. Siamo fratricidi, mai parricidi. Padri non li ammazziamo mai, tra fratelli siamo bravissimi ad ammazzarci. Grazie, buona serata, Massimo Cacciari. Saluti. And now, the good news! Nei bar del circuito Work Coffee a Bergamo, Tolmezzo e presto Piacenza e Milano si può fare il colloquio di lavoro davanti ad un aperitivo o aggiornare il curriculum con gli amici tra un salatino e uno spritz. Basta uffici grigi e tristi, d'ora in avanti anche la ricerca del lavoro potrà essere più allegra e informale. Eravamo quattro amici al bar che cercavano lavoro. Berlusconi dice: il Popolo della Libertà ha rispettato il patto con i suoi elettori, il presidente Letta ha rispettato le intese con il PDL, gli effetti positivi vanno a beneficio di tutti i cittadini. Così Berlusconi in una nota sull'abolizione dell'IMU sulla prima casa e i terreni agricoli. La pressione fiscale, dice ancora Berlusconi, di oltre 4 miliardi si riduce, soldi che rimangono e rimarranno nelle tasche degli italiani, consentendoci di guardare con più fiducia al futuro. Poi c'è anche Epifani che dice: decisioni prese oggi dal Consiglio dei Ministri costituiscono una soluzione equilibrata dal punto di vista sociale e delle emergenze. Il governo ha tenuto conto delle situazioni più difficili. Non fa cenno Epifani dell'IMU, cioè Epifani guarda agli esodati, alla cassa integrazione, dell'IMU non commenta, se ne frega. Poi abbiamo anche Saccomanni che dice quello che secondo Gasparri certo, non conta niente. I provvedimenti approvati oggi dal Consiglio dei Ministri comportano una copertura di circa 3 miliardi di euro, così Saccomanni. Già quindi c'è una, come si dice, una differenza tra quello che dice Berlusconi, 4 miliardi che tornano alle tasche degli italiani, e quello che dice Saccomanni, 3 miliardi. Quindi c'è un miliardo che balla. Che balla. Come sempre, non si sa. Beh, vedremo. Ascoltatori, anzi, abbiamo i titoli del TG1? No, ce l'abbiamo. Sì, sentiamoli. Il Consiglio dei Ministri: nel 2013 niente IMU, dal 2014 arriva la service tax, nel decreto anche misure per casa, cassa integrazione ed esodati. Il Premier Letta: nessuna nuova tassa, abbiamo preso una decisione di equità, Alfano, una bella notizia per gli italiani. Depositate le memorie difensive di Berlusconi contro la decadenza da parlamentare, l'ex Premier, ricorso alla Corte Europea e alla Consulta. Siria, l'ONU chiede più tempo per gli ispettori, Damasco minaccia l'Europa, i terroristi vi colpiranno con il gas, l'Italia frena sull'intervento. Orgogliosa di chiamarmi Rina, l'intervista alla TV svizzera della figlia del boss scatena l'indignazione, offese le vittime della mafia. 5% in più la spesa media per il caro libri, a pochi giorni dal ritorno in classe, inchiesta del TG1 sui problemi della scuola. George Clooney e Sandra Bullock, protagonisti del primo red carpet di questa 70esima mostra del cinema di Venezia, che apre in grande stile al Lido con il film Gravity, storia di due astronauti dispersi nello spazio. Piccola correzione su Epifani, che invece ha commentato anche la misura dell'IMU: anche la scelta sull'IMU è corretta, soprattutto in vista della riforma della trasformazione nel senso di un'imposta federale a partire dal prossimo anno, così ha detto Epifani. Andiamo ancora con gli ascoltatori, abbiamo Claudio che ci chiama da Mantova, buonasera Claudio. Buonasera, io volevo capire una cosa, ma faccio una domanda a lei. Ma secondo lei in 20 anni Berlusconi cosa ha fatto per il paese a livello politico, economico? cosa ha fatto per il paese, per l'economia, per gli imprenditori, dato che è un guardi, oggi potremmo dire che ha fatto, che ha contribuito alla cancellazione dell'IMU, perché è una richiesta che era del PDL. Lui, scusate, sì. È stato il suo governo che ha messo in campo l'IMU tre anni fa, ha impostato l'IMU lui, il suo governo, il PDL, adesso fa la campagna contro l'IMU quando è stato lui a crearla l'IMU. Ma di cosa stiamo parlando? Questo uomo qui va cancellato dalla politica italiana, non deve far parte della politica italiana, ha rappresentato il paese nel mondo facendoci fare delle figure ridicole. Lui ha trasformato l'Italia in una barzelletta. Questo uomo è un pericolo per la società, ha fatto solo i suoi porci comodi in Italia. Si è arricchito sulle spalle degli italiani, ha tagliato la scuola, la cultura, la ricerca, la sanità, le pensioni, e c'è ancora qualcuno che lo vota. Lei mi deve dire se una cosa è ammissibile in un altro paese al mondo dove un uomo La questione l'ha appena detta lei, c'è qualcuno che lo vota, sono milioni che lo votano, sono degli ignoranti perché non hanno capito che hanno a fare con una persona che è pericolosissima, perché è una persona che baratta qualsiasi cosa, o forse l'hanno capito e gli va bene avere... Gli va bene perché li paga sordi soldi. Beh, non è che paga paga tutti i 10 milioni di votanti, li paga tutti. 24 anni fa suo padre era fallito a livello imprenditoriale, in 20 anni ha fatto i miliardi, ma dove cavolo è andato a prendere questi soldi per fare tutto quello che ha fatto? I soldi non sono degli ultimi 20 anni però. Ma guardi, ascolta, Berlusconi qui ha moglie, lui è di moglie, ha sposato una di moglie, sanno tutti chi è Berlusconi. Era un fallito, è stato Craxi che l'ha portato nella politica italiana. Vabbè, adesso Claudio, grazie per questo intervento che ci riporta anche un po' troppo indietro per i miei gusti almeno. Salvatore da Palermo, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Ci sente? Salvino. Eccoci qua. Buonasera. Allora, volevo dire, innanzitutto sono d'accordissimo con la persona che è intervenuto prima. Per quanto riguarda, lei ha detto ci sono milioni di persone che li votano, grazie al cavolo, una persona con tutti i suoi mezzi, con tutte le TV, con tutte le cose, qualcuno ci sarà che lo vota, con tutti i suoi soldi, qualcuno ci sarà che lo comprerà. In più, semmai sottolineavo semplicemente il fatto che non è che qualcuno ci sarà, sappiamo che ci sono, ci mancherebbe altro, e la democrazia è questa. I mezzi di informazione, non è possibile che un politico possa avere TV e giornali. D'accordo, però torniamo su questo conflitto di interessi. Esatto, il conflitto di interessi. Ci sarà un motivo perché negli altri paesi non si può fare quello che è stato fatto in Italia. Semmai io ho raggiunto la consapevolezza che un certo PD, da Violante che io ammiravo tanto, è sempre collaterale con Berlusconi, trova sempre il modo per farlo. Trovarci una via di fuga. Quindi non è solamente Berlusconi il problema, giusto? Però ha sentito cosa ha detto Cacciari poco fa. Salvatore, ha sentito cosa ha detto Cacciari poco fa. Secondo me un corpo umano malattie ne ha tante, c'è il mal di gola, c'è il piede che fa male. Berlusconi è il cancro. Ha sentito cosa ha detto Cacciari poco fa, che il PD non darà retta a quello che dice Violante. Ma terrà una linea, quella che ha detto Epifani, che non voterà a favore di Berlusconi. Può anche darsi, però il solo fatto che ha fatto un governo con Berlusconi, sapendo quello che è Berlusconi, anche il fatto che, da quello che ho capito, levano l'IMU. Ma qual è il problema di levare l'IMU? Sì. L'IMU è una priorità italiana. La priorità italiana sono le tasse sul lavoro. L'IMU, se io sto discretamente bene, ma è giusto che io paghi delle tasse se ho una prima casa di 100 stanze? Sì, no, io sono d'accordo con lei, l'ho già detto, sono d'accordo. La priorità è le tasse sul lavoro, l'ha detto anche Squinzi. Presidente di Confindustria, tra l'altro. Sì. Va bene, Salvatore, voleva dire qualcos'altro o siamo a posto così? Solo questo. Buona serata. L'ultima volta ho votato al Senato PD per paura che succedesse quello che è successo. E alla Camera Monti. E allora? Forse voterò Grillo stavolta. Va bene, grazie per questo annuncio. Così. Roberto da Venezia, buonasera. Roberto? Pronto? Sì. Pronto? Roberto, buonasera, tocca a lei. Sì, buonasera, tanto complimenti a tutta la radio, veramente. Grazie. A tutte le radio? A tutta la radio. No, alla sua radio. Pronto? Vada. Io volevo dire, guarda, in merito Berlusconi, anch'io, purtroppo quanta invidia che c'è qui in Italia. ecco, questo sono breve. E invidia di che cosa? È invidia per una persona che è riuscita a fare quello che ha fatto lui. Lei lo invidia? Ah, sinceramente. Io lo invidio sì, perché magari mi piacerebbe anche conoscerlo. C'è una persona così, ma sa quanti, tutto questo... Però adesso deve vedersela anche con la possibilità di andare in galera, eh? Lo invidia lo stesso? Sì, lo invidia lo stesso, perché secondo me ha fatto quello che hanno fatto milioni di altre gente qua. Sì, Io vivo in realtà di Venezia, sapete quanti evasori ci sono qui? Frode fiscale però, frode per milioni di euro, lei aveva frodato anche lei? No, io non ho mai avuto la possibilità, sono lavoratore dipendente, quindi non posso. Però avrebbe voluto. Invidia l'evasore, ci sta dicendo? Avrebbe voluto frodare il fisco per 300 milioni anche lei, magari, dice, mi mettevo in tasca qualcosa. Beh, se fosse arrivato come Berlusconi, probabilmente sì. Però mi fa da ridere quanta gente vorrebbe... Però è reato in Italia, però è reato, no. Roberto, è reato questa cosa qua, non si può fare. Lo so. Che è reato, però bisogna vedere anche le prove, perché alla fine le prove che avevano su di lui non è che erano tante. No, momento, stiamo dicendo che è reato e lei dice bisogna vedere le prove, nel senso bisogna vedere se poi ti beccano, in questo c'ha ragione, però la sua posizione che sta dicendo io invidio una persona perché è un evasore fiscale, non abbiamo capito. No, io invidio la persona Berlusconi, Va bene. Grazie Roberto, grazie, buona serata. Arrivederci, complimenti ancora. Grazie a lei. Ferdinando da Firenze, buonasera. Buonasera a voi, anche a me garberebbe essere Berlusconi, avrei un mare di miliardi. Comunque detto questo, sono stato una mezz'oretta fuori dall'ascolto, per cui spero di non ripetere cose già dette, e premettendo che io sono tra i fondatori del PD, di centro-sinistra convintamente, per così dire fra virgolette anti-berlusconiano, però volevo un po' stigmatizzare le affermazioni che ha fatto l'onorevole eurodeputata Alfano, non certo quelle su Rina, sulla Figliarina, che condivido pienamente. Quella è difficile essere contrari, insomma. Infatti, è molto difficile. Poi io sono dirigente calabrese, quindi insomma quelle realtà le conosco abbastanza bene. E quindi è veramente difficile essere contrari. Però quando con quell'atteggiamento da vestale della sacralità della giustizia a senso unico dice che tutti ci rideranno dietro se Berlusconi propone un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione, della Comunità Europea, e quindi l'errore che stiamo continuando a fare da 20 anni contro Berlusconi è che non si riesce mai a distinguere il giudizio politico dalla sua vicenda personale e tecnico-giuridica. Se il cittadino Berlusconi vuole fare ricorso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, che lo faccia, ci saranno dei giudici che decideranno se accoglibile, non è accoglibile, se è fondato nel merito. Sì, certo, questa ha ragione lei. Ma non sta a noi, cioè, di valutare questo. Io valuto politicamente. Lei ha dato, io ricordo quello che ha detto lei per gli ascoltatori, perché l'intervista è di quasi 2 ore fa a questo punto. Sonia Alfano ha detto che la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, alla quale Berlusconi farà ricorso, è stato annunciato oggi, riderà quando arriverà il ricorso, se ne faranno un baffo, eccetera eccetera. Io non credo che questo sia francamente possibile. Non è questo il punto, capisci? Se vuoi combattere con Berlusconi, lo sa politicamente, la sua vicenda giudiziaria e anche questa questione di Rana Caprina, il ricorso alla Consulta, ma che facciano come vogliano, tanto poi fra un anno, quando la Corte d'Appello, che avrà la sentenza cassata con rinvio per decidere di nuovo l'entità dell'interdizione dei pubblici uffici, emetterà sentenza tra il minimo e il massimo previsto dal codice penale, e lì opera diritto, non c'è voti di consulta o cosa, la legge è già scritta e quella opera, quindi si sta solo guadagnando tempo. Ma quando si valuta la possibilità di un cittadino, in questo caso il cittadino Berlusconi, italiano europeo, di ricorrere alla Corte di Giustizia, ragazzi, ma non sacrosanto diritto, se non cominciano a difendere diritti degli altri, ricordiamoci quei bellissimi versi di Bertolt Brecht, no? Prima andarono a prendere gli ebrei, poi i comunisti, poi gli zingari, alla fine vennero a prendere me e non c'era nessuno a difendermi. Grazie Ferdinando, grazie mille per il suo intervento. Stefano da Asti, buonasera. Buonasera, sì, anch'io come chi ha telefonato prima sono stato un po' distaccato per una mezz'oretta, quindi non vorrei ripetermi. Però quello che volevo... Dove è stato per mezz'ora? Fatti suoi, scusa. Sono riuscito a rientrare in casa e ho staccato la radio, mi sono cambiato e adesso poi mi avete richiamato. Perfetto. Cortesemente. Allora, infatti la vediamo molto elegante. Sì, ma in semi-pigiama. Allora, no, io l'unica cosa che volevo dire era questo. Io sono un elettore di destra, faccio questa premessa. Vorrei fare un appello ad altri elettori, a tutti gli altri elettori di destra che pensano di staccarsi da questo pensiero unico che ci continuano a rappresentare, per cui per noi la cosa più importante è l'IMU, per noi la cosa più importante è Berlusconi. No, io sono un professionista, per me la cosa più importante è che l'economia riparta. Quindi io ho delle case, se me le fanno pagare perché mi reputano un po' più ricco di qualcun altro, ben venga, se questo vuol dire poter ridurre il cuneo fiscale, mettere altra ricchezza e che qualcosa parte. Però questa cosa che è molto nobile andrebbe detta, diciamo, al PDL, a Berlusconi, nel senso di dire anche a Letta, che è il presidente del Consiglio. Sì, però quello che dico, questo è interessante, dicendo uno che si dichiara di destra, sì, dice io il voto l'ho dato, però anche se non fai questa battaglia sull'IMU, che abbiamo capito che prima era per campagna elettorale, anche se adesso non ci schiantiamo solamente per togliere l'IMU come avevi promesso prima, esatto, cioè noi non modulabile. Ci arrabbiamo, è importante che diteglielo. Il discorso diventa, lo so, diteglielo. Lo sta dicendo, è perfetto. No, il problema, il fatto è proprio questo, cioè io adesso lo sto dicendo in radio, quindi qualcuno lo sente, ma come si suol dire, purtroppo l'atteggiamento di chi è di centrodestra è l'atteggiamento moderato e della maggioranza silenziosa, si sta zitti, e questa è una colpa che noi abbiamo. Va bene, grazie, abbiamo capito quello che lei dice. Tra l'altro l'ho già detto, ma visto che siamo alla radio di Confindustria lo ripeto, era la posizione anche del presidente di Confindustria Squinzi, che non era contrario a diminuire la tassa sulla casa, figuriamoci se uno non è contrario, cioè vuole aumentare le tasse, però ha sempre detto la priorità per le imprese sono le tasse sul lavoro, è di lì che si fa ripartire l'economia. Però c'è invece una teoria che dice che anche rimettendo nelle tasche degli italiani i 300, i 400 euro dell'IMU si fa non ripartire i consumi, ed è questa la tesi che ha prevalso in seno al governo Letta Alfano. Torniamo tra poco. Alfano, dopo. No, Alfano sta twittando tantissimo. A manetta. Ma proprio a manetta. Cosa dice? Faccio fatica a nascondere la mia soddisfazione. Gli italiani dovevano pagare una tassa e non la pagheranno. IMU, l'abolizione dell'IMU è stata fatta nel modo giusto, senza introdurre altre tasse. IMU, con l'abolizione IMU si è fatta scelta di realizzare un punto cardine di patto fondativo di governo per noi a valore di una missione compiuta. Abbiamo cancellato l'IMU per il 2013. Secondo i testi me... di diritto tributario non troveranno più scritta la parola IMU. Ecco, questo è l'autogol di Alfano quando dice è sparita dal vocabolario la parola IMU, sì, è apparsa la parola service tax da stasera, che tra l'altro è straniera, è più difficile anche da pronunciare per chi ha la remoscia, volevo dire. And now the good news. Da 3 anni Guido Ponzini, 28 anni, Viola da Gamba e Miriam Farina, 21 anni, arpa, suonano in un duo acclamato nel mondo. Guido e Miriam hanno un sogno. Per testimoniare quanto sia difficile farsi strada nel mondo della musica classica, vogliono costruire la MG Inc. Orchestra, con musicisti precari. E allora, in bocca al duo! Andiamo al numero verde 800 24 00 24 a sentire chi sentiamo. Sentiamo Paolo che ci chiama da Milano. Paolo? Buonasera. Eccoci. Mi collego agli ultimi interventi, sì, che vedo che sono tutti molto, molto belli stasera. Io ho chiamato dopo che ha parlato Cacciari, perché Cacciari ha, sì, fatto una riflessione molto importante. Cioè lui in poche parole ha detto che se il PD dovesse trovare qualche sgambutaggio per non votare al Senato perché Berlusconi venisse come si dice, ci siamo persi, cioè che di dare in modo a Berlusconi di proseguire ancora come se nulla fosse, purtroppo penso che il PD quando si andrà alle votazioni prenderà al massimo il 10%. Però quello che non ha detto Cacciari, che allora mi permetto di dirlo io, come senso così che sento parlando nei bar eccetera, che in quel momentino lì chi prenderà tutti i voti del PD, ormai delusi, o non andranno a votare oppure andranno a Grillo. A Grillo, quello che penso anch'io. Grazie, grazie a lei, buona serata. C'è un'altra dichiarazione di Letta, intanto, non su Twitter, ma a Lanza, cioè insomma ai giornalisti. Dice: giustamente io leggo Twitter che sono uno stagista, tu leggi Lanza che sei un giornalista. Vedi, di qui si vede la differenza. È una vittoria del governo che ha dimostrato coesione e compattezza. Da adesso basta chiedersi la scadenza del governo. Non c'è più scadenza, dice Letta. Che quindi da questo punto di vista si vede trionfante. Certo, la cosa si riaprirà forse più avanti quando si comincerà a parlare dei contenuti della service tax, chissà, però intanto andiamo avanti qualche mese. Ci sono degli aggiornamenti. Alfano invece dice: a copertura dei provvedimenti sull'IMU stiamo utilizzando il gettito IVA derivante dal pagamento dello Stato, è circuito virtuoso. Però invece Stefano Feltri, giornalista del Fatto Quotidiano, sì, gli risponde sempre su Twitter: un pezzo della copertura è data dal gettito aggiuntivo IVA dovuto ai pagamenti arretrati da pubblica amministrazione che ancora non sono arrivati, è un bluff. Sì, sì, è un meccanismo economico difficile da capire, legato ai rimborsi delle pubbliche amministrazioni. Cioè beh, Radio 24 mi sono permesso, non la capite voi che siete di Radio 24, i meccanismi economici, giusto? Ma sbagliato? Guarda, è il mio terzo ultimo giorno. Rileggila quella di Stefano Feltri, così. Un pezzo della copertura è data dal gettito aggiuntivo IVA dovuto ai pagamenti arretrati della PA, che è la pubblica amministrazione, sì, giusto? Che ancora non sono arrivati. Bless. Ecco, va bene, così abbiamo detta per benino. Andiamo a Luca da Treviso, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera e complimenti. Prego. Per la conduzione che si differenzia un po' da... Grazie, grazie. Grazie. Io avevo un paio di interventi velocissimi, anche perché ho sentito tutti sullo stesso argomento questa sera. Uno è quegli imprenditori che chiamano dicendo che ammirano Berlusconi, o anche non imprenditori tipo quello da Venezia. Io sono d'accordo che è un grande imprenditore, va ammirato, invidiato. Il problema è che è un cattivo politico, un pessimo politico. Quindi a tutti questi che lo ammirano, perché anche a loro volta imprenditori, io vorrei che riflettessero su questo. Beh, ma mi sembrava che ammirassero sostanzialmente il patrimonio, perché quelli parlavano molto spesso di dire avere tutti quei miliardi, quindi... Ma infatti, addirittura uno diceva vorrei arrivare a costruire quello che ha costruito Berlusconi. Certo. Benissimo, bastava che a un certo punto uscisse dalla politica e andasse a fare altro. Va bene, grazie, grazie. Ora, sì, 30 secondi, sì. Sì, sì, sì, sì, che se lei sa perché... le posizioni di Cazzari così nette e così condivise da molti del PD non sono quelle di Letta, che non capisce che quando si sovrappone al PDL perde voti. Tutto qua. Va bene, grazie. Saluto, grazie. È che Letta comunque è anche al governo insieme al PDL, non è che... Sì. Prego, prego. È il momento della bella storia di stasera, che non c'entra nulla, nulla, nulla, nulla, nulla con quello di cui abbiamo parlato fino ad ora. Cioè c'entra, non so, magari qualcosa c'entra anche, ma poco, così gli ascoltatori non possono più dire che parliamo solo delle stesse cose. Parliamo di che cosa? Intanto salutiamo Giuseppe Ongaro, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Titolare di un'azienda che si chiama Lavoro e Futuro, perché è un'azienda particolare che tra le cose che fa, non so se è l'unica, ora poi ce lo spiegherà, ce lo chiarirà meglio, è quella di lavorare all'interno del carcere di Verona. Sì, corretto. Eccoci qua, c'eravamo sentiti nel programma del weekend qualche tempo fa. E lei ci aveva raccontato come, da quanti anni lei fa questo lavoro, che peraltro per arrivarci ha dovuto anche aprirsi la strada, perché non è facile superare le cose burocratiche in una situazione come questa. Da quanti anni lei lavora nel carcere di Verona? Ecco, le dirò che a me piace sempre fare una premessa, sì, quando si parla di lavoro e futuro, e mi riferisco al mio socio Edgardo Somma. Sì. Senza di lui non sarebbe stato possibile fare questa piccola impresa. Detto questo, Lavoro e Futuro fa unicamente quel lavoro, vale a dire, noi facciamo lavorare i detenuti, detto molto semplicemente, sia all'interno delle carceri che all'esterno delle carceri. l'idea è venuta nel 2004, ci è voluto un annetto di pratiche burocratiche con tre ministeri fondamentali, dopodiché siamo riusciti a partire con i lavori. Siamo partiti con tre detenuti dipendenti, perché noi facciamo riferimento a una legge che è nata nel 2000 che regolamenta tutto il lavoro carcerario. Sì. E oggi, come buona notizia in controtendenza, l'ultima volta avevamo detto 70 dipendenti, oggi ne abbiamo 80. Beh, state crescendo. Diciamo subito una cosa che deve interessare tutti, non soltanto chi ha un parente in carcere, quindi può avere una prospettiva occupazionale, perché non è questo il punto. Cioè non è solo una via di salvezza individuale per le persone che possono aver sbagliato, ma che poi si ritrovano comunque con un'occasione, poter ricominciare. I progetti come il suo e come altri, che non sono molti in Italia, ma insomma servono, perché le statistiche ci dicono che la recidiva diminuisce quando uno si impegna in un progetto, un carcerato, un detenuto fa qualcosa, viene coinvolto in un'attività. Se non ricordo male, l'altra volta lei ci aveva detto che tra quelli che hanno lavorato con lei negli anni, che lei sappia, nessuno è più tornato in carcere. Questa è una realtà e questa è la vera bella notizia. Certo. Sì, direi proprio sì, vale a dire, non sono tutti delinquenti nell'animo, ecco. Non bisogna fare un luogo comune. Direi che l'altra cosa che abbassa molto la recidiva è quella di non essere indebitati con la malavita all'interno del carcere per poter vivere la vita del carcere. Questa carcere è una cosa importante, perché lei ci aveva detto che il carcere costa, ci sono delle piccole spese. Se uno non ha un lavoro, chiede i soldi in prestito alla criminalità per comprarsi le sigarette, per cosa? Ah, per tutto, per tagliarsi la barba, per fare anche quelle cose fondamentali che fanno parte, credo e sono convinto, della dignità nostra umana, insomma, ecco, cioè specchiarsi senza un barbone credo che faccia piacere a molti, insomma, se non a tutti. E quindi avere un lavoro è un modo anche per non legarsi a doppio filo in questo senso qua. Lei però, Ungaro, ci dica anche questo, come è arrivato a questa idea? Faceva un altro lavoro, era una persona tra virgolette normale, nel senso che non pensava a occuparsi di questo, dei carcerati, di fare un po' anche buon samaritano, no, se vogliamo. Sì, spero di essere stato normale allora come lo sono adesso, insomma, nel senso di aver mantenuto questa linea di condotta. Ecco, detto questo, prima io ristrutturavo aziende, mi venivano date aziende che dovevano migliorare le loro performance o erano debilitate, e allora come adesso credo che il lavoro si chiamasse volgarmente tagliatore di teste, no? Ecco, direi che la mia comunque non è una redenzione, ma cioè licenziava, in realtà licenziava per insomma, aumentare sì, i profitti dell'azienda. Ecco, quello diciamo che negli ultimi anni era diventato il punto fondamentale. Una volta direi che si tagliavano dei rami morti per aumentare le performance, ma anche la grandezza, anche i posti occupazionali, stranamente, nel senso che purtroppo bisognava recidere. Oppure anche solo per sopravvivere, no? Ungaro, perché ci sono delle situazioni in cui bisogna tagliare qualcosa. Oggi, certo, oggi negli ultimi anni invece tutto era molto propeso ad accontentare, a far felici gli azionisti di un'azienda, e questo per me era diventata una non soddisfazione di lavoro. Non abbiamo potuto dire di cosa si occupa l'azienda, purtroppo siamo in chiusura, ma insomma il senso l'abbiamo spiegato. Voi lavorate il ferro, fate rastrelliere, tutto quello che ha a che fare col ferro, e lo fate all'interno del carcere di Verona con 80 dipendenti a questo punto. Io lo ringrazio, titolare dell'azienda Lavoro e Futuro, grazie, Giuseppe Ungaro di Verona. Questa era la bella storia, un'azienda dentro il carcere, a casa circondariale di Verona, e quindi si dà una seconda possibilità a chi ha sbagliato. Gavardini, ci sentiamo domani. Quindi anch'io una seconda possibilità, posso tornare anche domani? Anche domani, perché sì, oggi ho sicuramente sbagliato. Ancora due giorni da stagista opinionista Radio 24. Grazie, grazie a Riccardo a Poli, Laura Marchesi, Valeria Bernardi regia, Andrea Piana che collabora alla scrittura del programma, Alessio Maurizi, caro Gavardini, ci sentiamo domani. E grazie a chi ci ascolta in podcast.